dormi papà, su dormi mamma, con un buffetto andatevene a letto, che adesso sai vi canterò. Una ninna nanna, ninna nanna blues, dormi mamma, su dormi papà, e sul guanciale sogna il principale, che prima o poi ti aumenterà. Questa ninna nanna, ninna nanna blues. Ma che c'entra? E dentro l'alcova sogna un'auto nuova, che domattina vinci la schedina. Intanto sai, io canto per voi. Una ninna nanna, ninna nanna blues. Dormono? Ma che? Uffa, tra poco comincia il film! Ninna oh, babbo e mamma chi gli do? Ma gliel'hai data la camomilla? Gliene ho dato un secchio! Scorda la finanza, sogna una vacanza, che un bel terzetto sopra il vostro letto intonerà e canterà. Una ninna nanna, ninna nanna blues. Oh, finalmente dormono! Spiano! Spiano, piano! Presto, accendiamo la TV! Ma che film trasmettono? Le calde notti dell'Ape Maya, con la partecipazione straordinaria di Barbie e Big Jim in versione hard. Grandissimo! Silenzio!